Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È ancora una giornata molto pesante per i mercati. Milano giù di oltre il 3%, come le altre borse europee. Monte dei Paschi ancora il titolo peggiore. Notizia di pochi istanti fa che c'è stato un incontro tra il Presidente del Consiglio Renzi, il Governatore della Banca d'Italia Visco e il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Dice Visco: grande collaborazione sul tema delle banche. La bufera sull'allenatore del Napoli, Sarri, per gli insulti a quello dell'Inter, Mancini. È un razzista, mi ha dato del frocio, ha raccontato lo stesso Mancini. Rischia adesso fino a 4 mesi di sospensione. Resta alto lo scontro tra Roma e Bruxelles. Renzi sostituisce l'ambasciatore, ci manda il viceministro Calenda. Aperta intanto l'indagine sull'Ilva. Stasera il varo delle nuove norme sulla pubblica amministrazione, stretta sul pubblico impiego e sulle partecipate. Non dovrebbe esserci la riforma delle camere di commercio. Dopo il caos di ieri con 200 auto soccorse per la neve, commissariato l'esercizio della Salerno-Reggio Calabria e l'ANAS avvia un'indagine. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per WhatsApp. In apertura dunque ancora la giornata pesante sui mercati che, come sentivate anche dai nostri titoli, sta avendo anche una coda politica. Vi daremo qualche dettaglio tra un attimo, intanto vogliamo fare un punto proprio su quello che succede in borsa, mercati che scendono di circa il 3% un po' in tutta Europa. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Pensa che non sono neanche i minimi di seduta, perché Piazza Affari li ha visti un'oretta fa circa, quando il FTSE MIB perdeva più di 3,5 punti, ma oggi quantomeno non abbiamo un esclusivo caso Italia in Europa, perché a far compagnia a Piazza Affari ci sono anche gli altri listini continentali. Come dicevi, Parigi sta perdendo il 3,22%, Francoforte adesso meno 2,84%, Londra meno 3%. Allora intanto cominciamo col dire che il petrolio ha testato nuovi minimi a $28 al barile, quindi un test che ha riportato il greggio su livelli di oltre 12 anni fa. Quindi vanno a picco in tutta Europa tutti i petroliferi, gli energetici e i titoli del settore minerario legati in qualche maniera al mondo delle materie prime. Poi abbiamo chiaramente il caso bancario a Piazza Affari. Monte dei Paschi stamattina non riusciva a fare prezzo, poi quando è entrata in negoziazione è finita subito in asta di volatilità e adesso perde stabilmente fra il 15 e il 18%. Peraltro in borsa si stanno rincorrendo anche le notizie che qualche grande gruppo finanziario sarebbe stato in qualche maniera interpellato, chiamato dal governo ad intervenire su MPS. Le Poste Italiane hanno dovuto smentire un'ipotesi di intervento in salvataggio, così come poco fa ha dovuto fare anche Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, che ha detto: lo escludo assolutamente, non ci sono sollecitazioni ad intervenire su Monte dei Paschi. Un intervento lo aveva fatto questa mattina Fabrizio Viola, l'amministratore delegato di MPS, che aveva voluto commentare l'andamento anomalo del titolo, che però ha detto non ha riscontri nei fondamentali della banca. Oggi scendono anche altri comparti, dicevamo Saipem meno 8 per il comparto petrolifero, poi nel settore bancario altri 7 punti li riperde anche oggi il Banco Popolare, la holding di Casa Fiat Exor meno 5,90, ma il bollettino di guerra riguarda tutti i titoli e tutti i settori. Simone, vedremo se oggi Wall Street aiuterà un po' l'Europa a risollevarsi. E grazie a Deborah Rosciani per questo aggiornamento. Vi ricordo che come sempre vi aggiorneremo di nuovo sui mercati alle 13.30 nell'appuntamento consueto con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore. Di questi temi e delle banche italiane, come si diceva, si è parlato in un incontro che c'è stato tra il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Dice il Ministro dell'Economia Padoan che oggi si registrano grandi turbolenze che riflettono impulsi a livello internazionale, malgrado questo, dice, c'è una solidità di fondo del sistema bancario italiano che va avanti e che non a caso viene considerato uno dei più affidabili e attraenti dove investire. Queste le parole di Padoan, mentre il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco appunto ha partecipato a questo incontro. Si è parlato dopo questo incontro di una grande collaborazione sul tema delle banche. Di questi temi ha parlato anche il governatore della Banca Centrale Austriaca e membro del board della Banca Centrale Europea, Novotny. Sentiamo. Non c'è nessun caso Italia in Europa, pensare il contrario sarebbe un'esagerazione. Così la Banca Centrale Europea, alla vigilia del direttivo, torna a rassicurare i mercati e lo fa tramite Ewald Novotny. C'è una discussione su alcune banche italiane che sono in contatto con Banca Italia, ma non c'è nessun problema. Ci racconta, a margine dell'Euromoney Forum, Novotny, membro del Consiglio Eurotower e governatore della Banca Centrale Austriaca. Qualche ora prima, da Francoforte, avevano spiegato che i tanto temuti test che fanno tremare banche e borse sono solo controlli di routine. Anche per l'Italia, nel complesso, il giudizio è buono. L'andamento è positivo e non vi sono segnali di crisi, spiega l'esponente BCE. Credo che dopo un periodo difficile ci siano chiari segnali di ripresa ed è importante che questi sviluppi positivi associati al governo possano consolidarsi, dice. E su Renzi? Anche lui non è un problema per l'Europa, è convinto Novotny. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna. E come avete sentito, si continuano a far sentire i riflessi dello scontro in atto tra Roma e Bruxelles su una serie di fronti. Ieri, scontro che ieri si è arricchito delle parole del capogruppo dei Popolari all'Europarlamento, Manfred Weber, che ha attaccato fortemente Renzi. Nel frattempo, questa mattina è stata, come previsto, aperta l'indagine per aiuti di Stato per quel che riguarda due decreti che riguardano appunto l'Ilva. Facciamo il punto su tutto questo con Alessandra Schepi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Nell'area da giorni euroufficiale, la Commissione europea ha aperto formalmente un'indagine per stabilire se il sostegno dato all'Ilva rispetti le norme sugli aiuti di Stato. Al centro dell'interesse europeo i 2 miliardi stanziati in varie forme per sostenere lo stabilimento di Taranto, interventi corretti e lo dimostreremo, ha commentato poco fa il ministro dello sviluppo economico Guidi. Ma quello dell'Ilva è solo uno dei tanti dossier caldi che oppongono l'Italia all'Europa in un momento, come sappiamo, di rapporti piuttosto tesi. Oggi tenta di smorzare Toni Pier Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari. Nessuna guerra con l'Italia, che è un membro fondatore molto importante dell'Europa. Massimo rispetto per il loro sforzo riformista di Renzi. Occorre lavorare in un clima amichevole, dice il commissario, ma poi non rinuncia a una nuova bacchettata. L'Italia non può criticare perché è il paese che ha avuto di più in termini di flessibilità. Piuttosto faccia qualcosa per ridurre il debito. La tensione con Bruxelles resta dunque alta. Ieri, come dicevi anche tu, il Partito Popolare ha accusato Renzi di mettere a rischio la credibilità dell'Unione, di assecondare il populismo. Nel mirino lo stop che Roma pone al fondo da 3 miliardi per i progetti di accoglienza dei rifugiati in Turchia. Ma intanto dobbiamo dire che un punto a favore il nostro paese sembra averlo segnato. Secondo il Financial Times, la Commissione europea a marzo dovrebbe rivedere il regolamento di Dublino che impone ai profughi di chiedere rifugio nel primo paese europeo. Raggiunto un obbligo definito da sempre dal nostro paese una ingiustizia nei confronti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Con questo è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Tra le mosse arrivate ieri da parte di Roma c'è stata la scelta di sostituire l'ambasciatore a Bruxelles, mettendoci un politico. Si tratta dell'attuale viceministro allo sviluppo economico Carlo Calenda. Sentiamo. Un ambasciatore politico. La contromossa di Matteo Renzi di fronte al montare dello scontro con Bruxelles può sembrare una sorpresa, ma in realtà nasconde alcuni messaggi. Il primo è, se vogliamo, una sfida all'Europa. L'apprezzato rappresentante Sannino, un pedigree di lungo corso proprio all'interno della Commissione europea e forse proprio per questo ritenuto troppo vicino al nemico, esce di scena. Le prime indiscrezioni sul malumore di Renzi nei suoi confronti emersero già un mese fa, ma il premier fece di tutto di fronte ai giornalisti per sopire la questione. Un mese dopo il cambio è arrivato. Magari d'impeto sull'onda della guerriglia permanente con l'Europa, ma il disegno era preesistente. Il secondo messaggio ha lo stesso corpo diplomatico. Se del cambio della guardia si sapeva, nessuno si immaginava Carlo Calenda, vice ministro allo sviluppo economico. Uno schiaffo virtuale alla Farnesina con la scelta di un metodo che appare molto americano nei modi e che rompe una tradizione. Anche perché il profilo di Calenda è sui generis persino per la politica. A lungo manager sia in azienda che per Confindustria, Calenda, poco più che quarantenne, vi approda solo di recente con Scelta Civica, che lascerà poi per aderire al PD. Negli ultimi anni ha seguito da vicino il commercio estero, guidando delegazioni del sistema Italia nei principali mercati mondiali e lavorando per incrementare gli investimenti esteri nel paese. Proprio recentemente ha segnato un punto a suo favore in una battaglia giudicata fondamentale da Roma: far slittare di 6 mesi la decisione europea sul riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E cambiamo argomento e veniamo al caso che sta facendo discutere il mondo del calcio e potrebbe portare sanzioni pesanti per il comportamento dell'allenatore del Napoli e le parole rivolte all'allenatore dell'Inter, Mancini. Sentiamole innanzitutto come riportate dallo stesso Mancini. Ha usato parole razziste. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, per come mai 5 minuti di recupero. E lui ha iniziato a inveire contro di me, poi a un certo punto urlando, dicendo frocio, finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Il quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. Ed eccoci, Carlo Genta, ciao. Bel polemicone, questo quarto di finale di Coppa Italia. Lascia, manda l'Inter in semifinale 2-0 Napoli, ma questo ovviamente sta sullo sfondo, quasi nell'angolo, perché la polemica è tutta qui e divide l'Italia per queste parole di Sarri denunciate da Mancini. Razzismo mi sembra la parola sbagliata, omofobia mi sembra quella corretta. Certamente si tratta di qualcosa di fortemente politically incorrect, no? Quindi è una... Quantomeno. È altrettanto evidente come in questo momento, insomma, al di là della Coppa Italia, ricordiamo che Napoli primo in classifica, l'Inter è terza, insegue, poi c'è la Juventus seconda, insomma, è un episodio che rischia anche di condizionare la corsa verso lo scudetto dal punto di vista mediatico e non solo, perché Sarri rischia 4 mesi. Rischia 4 mesi di squalifica. Sarri, 4 mesi di squalifica. Alla mano, rischia 4 mesi di squalifica. Sarri, tra l'altro, non nuovo ad episodi di questo genere. In realtà, Sarri, non nuovo ad episodi di questo genere. C'è stato un post Empoli Varese di Serie B, in cui Sarri disse che ormai il calcio sta diventando uno sport per omosessuali, eccetera. Cioè, usò una frase di questo tipo, anche lì fortemente connotata. Questo, insomma, Sarri è, sappiamo qual è la sua estrazione, qual è la sua esperienza. È un uomo che viene dal calcio minore, probabilmente non abituato a pressioni mediatiche di questo tipo. Certamente in questo caso è scivolato su una enorme buccia di banana, per la quale pagherà delle conseguenze. Io mi auguro soltanto che questo non andrà ad influire sulla corsa a scudetto e a falsare il campionato. Grazie intanto a Carlo Genta, vedremo se avremo la possibilità di tornare a parlarne nella seconda parte della trasmissione. Siamo sulle tracce di Demetrio Albertini e di Renzo Olivieri, il presidente dell'associazione allenatori. Vedremo se riusciremo a raggiungerli nel corso della trasmissione. Cambiamo argomento intanto e passiamo alla politica, al Consiglio dei Ministri di questa sera per l'attuazione dei decreti sulla pubblica amministrazione. Finalmente ci siamo, eh? È stata convocata per le 9 di questa sera la riunione del Consiglio dei Ministri, dalla quale è atteso il via libera ai decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione. Ieri il ministro Madia è stato a Palazzo Chigi per limare gli ultimi dettagli. Le norme che hanno fatto più discutere in questi giorni sono state soprattutto quelle annunciate dal premier Renzi sui licenziamenti lampo per i dipendenti pubblici assenteisti. Ma i decreti che saranno stasera sul tavolo del Consiglio dei Ministri disciplinano anche la riorganizzazione dei servizi pubblici locali, il taglio delle partecipate, il passaggio della Guardia Forestale ai Carabinieri e il numero unico per tutte le emergenze, che sarà il 112. Dal pacchetto esce invece il decreto di riordino delle Camere di Commercio, mentre entra il provvedimento per la semplificazione della segnalazione certificata di inizio attività. Dal Consiglio dei Ministri, infine, oggi è atteso anche il via libera alla riforma delle classi di concorso, che indicano l'insieme delle materie che possono essere insegnate da un docente. Andrea Viali, Radio 24. Ettore Scola nasce nel 1931 in Irpinia, ma cresce a Roma. Allora, abbiamo un piccolo problema tecnico, è partito nel frattempo il servizio su Ettore Scola, ma prima di parlare di Ettore Scola dobbiamo andare in Pakistan, dove c'è stato un attacco terroristico ad un'università. Sentiamo. Era in programma un recital di poesia dedicato alla pace all'università Bacha Khan di Charsadda, nel Pakistan nord-occidentale, quando un commando armato ha fatto irruzione fra gli studenti e gli insegnanti. I fogli della poesia sono rimasti a terra, con loro anche 21 morti ufficiali, ma altre fonti parlano di 30 persone morte, tra cui anche i 4 miliziani uccisi. Poliziotti, soldati e forze speciali hanno fatto irruzione nell'università via terra e via aria per respingere l'assalto, mentre le immagini delle televisioni mostravano studenti e studentesse correre e fuggire in preda al panico. Il portavoce ufficiale del movimento talebano ha fortemente condannato l'attacco e tuttavia poco prima una telefonata d'un giornale del comandante Omar Mansour, sempre del movimento talebano TTP, aveva rivendicato l'attentato. Charsad sorge a 50 km da Peshawar, dove alla fine del 2014 i talebani assaltarono una scuola militare, uccidendo circa 140 studenti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo dunque, anche se ne avete sentito parlare tantissimo anche in Melog di Gianluca Nicoletti, anzi vi consiglio il podcast, andatevelo a scaricare, della morte di Ettore Scola. Ettore Scola nasce nel 1931 in Irpinia, ma cresce a Roma. Inizia da ragazzino, come racconterà nel suo ultimo film, che strano chiamarsi Federico, disegnando vignette per le riviste umoristiche Marco Aurelio e Il Travaso delle Idee. Quanti anni hai, Dica? 16. Che studi sta facendo? Faccio il secondo liceo. Allora saprà anche che insomma, stiamo cercando di far resuscitare il nostro Marco Aurelio. Le prime sceneggiature per il cinema, la radio e la TV. Nel 1964 l'esordio alla regia con Se permettete parliamo di donne, ma il suo primo grande successo arriva con Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? Negli anni 70 i suoi capolavori, su tutti C'eravamo tanto amati, compendio di 30 anni di storia d'Italia. Nicola, ti ricordi dopo la scia raddoppia? Sì. Ha fatto 5 cause alla televisione. Sì. Ha perse tutte. Pure io da grande voglio far causa a tutti. Sguardi sull'Italia, come in Una giornata particolare, La terrazza, La famiglia, i suoi episodi de I nuovi mostri. Un cinema di osservazione, spiegava lui stesso. Si partiva dall'osservazione della realtà, dalla voglia di raccontare il nostro paese, ma sempre il mio non è un cinema, mai stato un cinema di fantasia, ma un cinema di osservazione. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci prendiamo una pausa, c'è il traffico, poi ci ritroveremo, visto che appunto veniamo dall'appuntamento con il traffico, a parlare dell'A3, la Salerno-Reggio Calabria. Ieri 200 automobilisti sono sostanzialmente rimasti intrappolati nella neve. Questa mattina è scattato il commissariamento dell'esercizio da parte dell'ANAS. Ne parleremo con un nostro ascoltatore che è rimasto bloccato per 7 ore là, e poi parleremo anche con Roberto Mastrangelo, che è vice direttore nazionale dell'area esercizio dell'ANAS e che sta esercitando i poteri su quell'area da ieri notte sostanzialmente. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: c'è stato un vertice questa mattina tra Renzi, Padoan e Visco sulle banche, sistema solido, dice il ministro dell'economia, ed è ancora una giornata molto pesante per i mercati, con Milano giù del 3,5% in questo momento, sono negative anche le altre borse europee. Monte dei Paschi è ancora il titolo peggiore, in questo momento il calo teorico è del 18,3%. C'è una vera e propria bufera sull'allenatore del Napoli, Sarri, per gli insulti a quello dell'Inter, Mancini. È un razzista, mi ha dato del frocio, dice lo stesso Mancini. Adesso Sarri rischia fino a 4 mesi di sospensione. Resta alto lo scontro tra Roma e Bruxelles. Renzi ha sostituito l'ambasciatore e ci manda il vice ministro allo sviluppo economico Calenda. È stata aperta intanto l'indagine sull'Ilva per aiuti di Stato. Questa sera ci sarà il varo delle nuove norme sulla pubblica amministrazione, stretta sul pubblico impiego e sulle partecipate. Non dovrebbe esserci la riforma delle camere di commercio. Buongiorno a Vincenzo Milano, che è un nostro ascoltatore. Ieri, mentre ero in onda, come sapete ogni tanto insomma faccio doppio turno, chiamiamolo così, e ero in onda in Focus Economia, e ha detto: dite qualcosa su quello che sta succedendo sulla 3, sono bloccato da ore e ore. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Vincenzo, quanto è rimasto fermo sulla 3 ieri lei? Esattamente 7 ore e mezza. 7 ore e mezza bloccato. Sì, senza bloccato nel tratto presso Cosenza. Cosenza Nord a Cosenza Sud, 7 ore. 7 ore. Dove doveva uscire lei, tra l'altro? Io stavo andando giù in Sicilia, dove sono arrivato stanotte alle 3. Per un impegno professionale, quindi posso immaginare. Non c'è stata nessuna indicazione, nessuno che le ha detto niente? Guardi, assolutamente nulla, anzi c'è stato proprio, ci sono state delle situazioni molto paradossali, perché con tutto il rispetto delle forze dell'ordine, loro non sapevano dare indicazioni. È arrivato un esercito tra auto della polizia, mezzi, spazzanieri, eccetera, e ci hanno fatto rimanere lì 7 ore e mezza per poi non spazzare nulla e farci uscire subito dopo 7 ore e mezza, alla prima uscita utile. Tra l'altro preciso che quando siamo usciti a Cosenza, al primo rondò, c'erano i vigili urbani che dicevano, io ho chiesto, scusate, ma io devo arrivare in Sicilia, come devo fare? Dice, no, le conviene praticamente andare sulla costa. E per andare sulla costa, Paola, come devo fare? Si arrangi, cioè, e anche lì c'è neve. È davvero proprio esattamente le parole riferite, tra l'altro, da una vigilessa. Poi ovviamente fermi là 7 ore e mezza con i riscaldamenti accesi, la benzina che finisce, certo, immagino, certo, no? Certo. Immagino che la condizione fosse, certo, quella. Nessuno che poi è passato anche a chiedere se avevamo bisogno di qualcosa, nessuno. Nessuno, nessuno, quindi no, nessuno. Non intervento della protezione civile, nessuno che vi ha portato acqua, nulla, roba da mangiare, eccetera. Nulla. Quanti eravate? Era una grossa fila quella nella quale eravate, no? Beh sì, io credo che una fila almeno di oltre 10 chilometri di macchine, di auto. Sì. 10 chilometri, e tutto questo per la neve, poi alla fine avete scoperto, semplicemente per questo. Va bene, allora io la ringrazio, grazie a Vincenzo Milano, un ascoltatore, e per la sua testimonianza. Avremmo dovuto avere a questo punto anche Roberto Mastrangelo, vice direttore nazionale dell'area esercizio dell'ANAS. Ha qualche problema, lo raggiungeremo più tardi e gli chiederemo chiarimenti su questa vicenda. Intanto vogliamo tornare a parlare della vicenda del referendum sulle trivelle. Ieri la Corte Costituzionale ha dato il via libera ad uno dei quesiti, di questo vogliamo parlare con una delle persone che ha sostenuto questo referendum, uno dei presidenti di regione che lo ha sostenuto con più forza, ed è Michele Emiliano, presidente della Puglia. Buongiorno Emiliano. Buongiorno, buongiorno. Allora, come giudica, immagino che sia soddisfatto della decisione della Consulta, però rischia di creare qualche problema politico, per così dire, al suo stesso partito e al governo, che è espressione del partito del quale lei fa parte. È un'occasione imperdibile per ragionare dal basso verso il governo della politica energetica nazionale, però è anche un'occasione imperdibile, secondo me, per riportare ad un rapporto di fiducia con le istituzioni quei milioni di italiani che non vanno a votare, che invece si sono mobilitati nei comitati non priv. Sarebbe un errore gravissimo se il governo, di fronte a questa possibilità, si limitasse ad emettere una norma ammazza referendum al solo fine di evitare che questo referendum coincida con quell'altro, quello costituzionale, e se noi negassimo invece a quell'altra parte d'Italia di esprimersi sul referendum anti-trivelle, noi rischieremmo di avere un effetto rebound, cioè che si vada a votare al referendum costituzionale al solo fine di sottolineare il proprio disappunto nei confronti del governo. E le voglio fare una domanda sulla notizia di questi ultimi minuti, ossia che è arrivata l'ufficialità di un'apertura di un'indagine formale da parte di Bruxelles per aiuti di Stato sull'Ilva. La cosa si riferisce, lo ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori, a due decreti e anche all'ultimo, quello che prevede un prestito ponte di 300 milioni di euro. È preoccupato? Beh, certamente questa vicenda è molto complessa. Sull'Ilva gravano due possibili infrazioni: quella di natura ambientale, che è pesantissima, perché rischia di far chiudere la fabbrica se noi non riusciamo a metterla in condizioni di funzionare senza ammazzare la gente, come purtroppo avviene. Dall'altra parte c'è la questione degli aiuti di Stato. L'Italia aveva basato tutto su una strategia piuttosto improbabile, cioè che l'autorità giudiziaria svizzera consegnasse del denaro sequestrato alla famiglia Riva prima della sentenza passata in giudicato allo Stato per la riambientalizzazione della fabbrica. Questa strategia, devo dire, era stata ampiamente indicata da noi qui in Puglia come insufficiente ed è andata male. Adesso utilizzare il denaro per la patrimonializzazione dell'azienda, anche in senso di dotarla di impianti meno impattanti dal punto di vista ambientale, temo che vada incontro alle sanzioni europee. È inevitabile questo bisogna evidentemente concentrare gli aiuti di Stato sulle bonifiche della fabbrica e trovare un partner privato o lo Stato stesso a condizioni di mercato, perché questo dicono le direttive europee, che gestisca la fabbrica e la rimetta in funzione, perché attualmente viene gestita da 3 commissari di governo che purtroppo hanno determinato perdite enormi della fabbrica, che rischia veramente di collassare su se stessa se non ci sarà un intervento intelligente. Quindi mi faccia capire, Emiliano, dal suo punto di vista e dalla sua posizione, la decisione di Bruxelles è ineccepibile e anzi probabilmente, come dire, questa è l'apertura dell'indagine formale e si approderà ad una procedura di infrazione. Salvo che l'Italia non dimostri che quel denaro serve non alla gestione aziendale, ma serve a realizzare le bonifiche ambientali. Sulla patrimonializzazione dell'azienda e sul suo, diciamo, salvo che come noi abbiamo proposto di costruire nuovi forni con tecnologie diverse, in coerenza con le strategie europee, senza l'utilizzo di carbone, a quel punto si potrebbe andare a negoziare con l'Unione Europea un finanziamento iniziale dell'eventuale privato che decida di cambiare il sistema di alimentazione da carbone a gas, corrispondendo alle direttive europee. Ma questo il governo lo deve fare andando a parlare con l'Unione Europea, non facendoci a botte. Grazie a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, per essere stato con noi. Solo un paio di risposte a sms messaggi su WhatsApp che arrivano. Innanzitutto a Gino da Milano: la persona bloccata nella neve che abbiamo intervistato non era un giornalista ma un nostro ascoltatore, che dice se non fosse stato un giornalista non l'avreste chiamato. E altri ascoltatori che ci segnalano altri blocchi di altro tipo, per esempio in un incidente per nebbia un ascoltatore ci segnala di essere stato bloccato addirittura per 5 ore sulla Padova-Bologna. Di casi di questo genere evidentemente ce ne sono parecchi. Diciamo che 7 ore e mezzo alla neve è discretamente tanto. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo come sempre per fare il punto sui mercati e poi torniamo su questa vicenda della 3, perché forse riusciamo a raggiungere finalmente qualcuno dell'ANAS, e poi proviamo a ritornare sulla vicenda di Sarri, l'allenatore del Napoli, e delle sue frasi, e vedremo anche qua se riusciremo a raggiungere Demetrio Albertini o Renzo Ulivieri. Siamo sulle tracce di entrambi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. C'è stato un vertice questa mattina tra Renzi Padoan, il ministro dell'economia Padoan, e il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulle banche. Lo stesso ministro dell'economia dice il sistema è solido in una giornata che è ancora molto pesante per i mercati, ne parliamo tra un attimo. Milano giù di oltre il 3% e Monte dei Paschi che perde un teorico 18,3%. La bufera sull'allenatore del Napoli Sarri per gli insulti a quello dell'Inter Mancini. Mancini ha riferito che gli ha detto sei un frocio, sei un finocchio, è un razzista, nella Premier League sarebbe espulso, adesso Sarri rischia fino a 4 mesi. Resta alto lo scontro tra Roma e Bruxelles. Berlino si rivolge a Renzi e dice: sul tema dei profughi serve un accordo rapido con la Turchia. Il commissario Moscovici aggiunge: nessuno ha avuto più flessibilità dell'Italia. Intanto viene aperta, come vi abbiamo raccontato poco fa, l'indagine sull'Ilva. E la procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta dopo il caos di ieri, è notizia di poco fa, con le 200 auto soccorse per la neve. Commissariato intanto l'esercizio della Salerno-Reggio Calabria da parte dell'ANAS, che a sua volta avvia un'indagine. La borsa. Effetto giorno. Sempre effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Ci sono le ultime dichiarazioni di Stefan Seibert, che è il portavoce di Angela Merkel, che dice ad una domanda specifica sull'attacco portato dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dice: quando parla Jean-Claude Juncker parla come Presidente della Commissione Commissione europea e non parla per noi, insomma, come a dire che non c'è un disegno. Come vedete, le tensioni tra Roma e Bruxelles proseguono, continuano anche le dichiarazioni. Lo stesso Juncker ha annunciato e chiesto un vertice straordinario europeo proprio per discutere della crisi dei migranti, mentre è notizia di questa mattina e di pochi istanti fa che in Italia arriva il terzo hotspot, uno di quei luoghi che servono di fatto per l'identificazione e la registrazione dei migranti e dei richiedenti asilo, e sarà a Pozzallo. Noi adesso andiamo proprio nelle zone dalle quali vengono i profughi. In un rapporto pubblicato oggi, Amnesty International ha accusato i Peshmerga, le forze del governo regionale del Kurdistan e altre milizie kurde, di aver demolito, fatto esplodere o dato alle fiamme migliaia di abitazioni nel nord dell'Iraq, con l'apparente obiettivo di vendicarsi contro le comunità arabe per il loro presunto sostegno al gruppo armato del cosiddetto Stato Islamico. Valentina Furlanetto ha sentito Karim Franceschi, che è un italo-marocchino di Senigallia e che è andato a combattere insieme ai curdi di Kobane il califfato. Sentiamo. Questo rapporto qui contro i Peshmerga, devo dire, non mi sorprende, ma non è nemmeno chissà che grande scoperta, l'hanno sempre detto. Amnesty International non aveva bisogno di raccogliere interviste e testimonianze, bastava che li seguisse, poiché loro non si portano i giornalisti dietro quando demoliscono le case e i villaggi arabi mentre avanzano. I Peshmerga in Iraq non hanno mai fatto segreto del loro odio in qualche maniera verso le popolazioni e le etnie arabe. È molto differente dalle unità di protezione popolari e le unità di protezione femminili che stanno in Siria. Cioè, i Peshmerga iracheni, intendo i Peshmerga di Barzani, cioè sono i Peshmerga del partito di Barzani, sono alleati con la Turchia. Quindi non stanno aiutando i curdi siriani che combattono contro l'ISIS? No, assolutamente. Tant'è che molti internazionali che provavano ad arrivare nel Rojava si ritrovavano ad essere arrestati da Barzani, cosa che è successa anche all'italiano Alessandro De Ponti. Invece i curdi di Kobane, della zona nella quale lei ha combattuto, con i quali lei ha combattuto, che tipo di rapporto hanno con gli arabi? Quasi metà ormai della forza armata nel Rojava è composta da arabi. Io stesso non ho nessun legame etnico con i curdi, mia madre è araba. Ecco qua, questo è il racconto di Karim Franceschi, l'intervista integrale andrà in onda sabato nella trasmissione Indovina chi viene a cena, firmata appunto dalla nostra Valentina Furlanetto. Noi passiamo a parlare della politica, e il tema, un altro dei temi di dibattito di queste ore continua a essere quello delle unioni civili. Tra Pantheon e Circo Massimo si articolerà la sfida sulle unioni civili. Il Family Day infatti si svolgerà nell'ippodromo dell'antica Roma nel pomeriggio del 30 gennaio e alla kermesse del Fronte Cattolico parteciperà anche il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che in un'intervista al Corriere spiega: quella piazza è molto importante, esserci non significa andare contro qualcuno. Il premier Matteo Renzi ha già detto che darà libertà di coscienza, ci andrò come semplice cittadino e non come rappresentante del governo. Le associazioni LGBT, quelle per i diritti omosessuali, si riuniranno invece sabato prossimo al Pantheon. Il nodo continua ad essere la step child adoption, ovvero la possibilità di adottare il figlio del proprio partner. Fortemente avversata dal Fronte Cattolico, la firmataria della legge, Monica Cirinna, ribadisce che il provvedimento è costituzionale perché parla di persone dello stesso sesso e non equipara le unioni civili al matrimonio, come dice la sentenza della Consulta. Ma l'allarme è sulla possibilità di qualche sgambetto nelle votazioni a scrutinio segreto. L'esito, insomma, è del tutto incerto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo il quadro sul fronte delle unioni civili. Intanto mi corre l'obbligo di darvi un aggiornamento su quello che sta succedendo sui mercati in questi minuti, perché Milano in questo momento fa segnare un ulteriore peggioramento, un meno 3,6% per quanto riguarda il FTSE MIB, un meno 3,57% per quanto riguarda il FTSE OCER. Da dire che la giornata di oggi, come già vi raccontavamo prima, è negativa un po' per tutti i mercati europei, ma ovviamente sulle vicende italiane pesano le questioni delle banche, in particolare Monte dei Paschi, che oggi appunto non riesce a fare prezzo, ancora ferma ad un calo teorico del 18,3%, mentre il Banco Popolare perde il 7,3% e Unicredit il 5,43%. La mattinata è stata caratterizzata tra l'altro da un giro di incontri su questi temi. C'è stato l'incontro tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Subito dopo il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan ha mandato un messaggio dicendo sostanzialmente che il sistema bancario è solido, ma nel frattempo ci sono altri incontri che si stanno svolgendo in queste ore. Sono gli incontri tra i vertici delle grandi banche e proprio il Ministero dell'Economia e anche il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, proprio per fare un punto sulla situazione. Per quanto riguarda lo specifico del Monte dei Paschi, in queste ore sono arrivate una serie di smentite da parte di Unicredit, da parte di Poste Italiane, smentite su un eventuale coinvolgimento in operazioni di salvataggio generiche di istituti bancari, ma è evidente che si parla di Monte dei Paschi. Abbiamo solamente un minuto perché si è fatto raggiungere un po' tardi, la devo bacchettare, Roberto Mastrangelo, vice direttore nazionale dell'area esercizio dell'ANAS, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, chiedo scusa ma purtroppo È una giornata dura. Ero in un impegno di lavoro, Ma che è successo ieri sulla 3? Cioè, c'è stata, da quel che ci ha raccontato anche un nostro ascoltatore che abbiamo avuto in diretta, un'incapacità di gestione che ha portato una serie di automobilisti fermi tra le 7 ore, il nostro ascoltatore, alcuni anche di più, per la neve. Guardi, allora effettivamente ieri nel primo pomeriggio, purtroppo fino alla tarda serata, un evento nevoso particolarmente intenso e concentrato in una zona a sud di Cosenza ha determinato il blocco della circolazione per due eventi distinti sulla carreggiata in direzione sud e in quella in direzione nord. E ovviamente questo è stato determinato dalla presenza di un numero elevato di mezzi leggeri, pesanti, da mezzi intraversati, da mezzi che si sono affiancati nel tentativo di superarsi, sì. E ovviamente in questo contesto, voglio dire, ci sono una serie di concause poi che concorrono, sì. Alla brevemente, guardi, abbiamo veramente 10 secondi, Mastrangelo, ci dice solo una cosa: evidentemente, se avete deciso di commissariare l'esercizio, qualcosa nei meccanismi quantomeno di allerta degli automobilisti non ha funzionato. Allora, sicuramente dobbiamo verificare se tempi e modi di attivazione dei piani che sono predisposti e che prevedono una serie di azioni sono state fatte nei tempi corretti, con la massima serenità e con la trasparenza e la chiarezza che si impone ad un ente, ad una società pubblica che gestisce un servizio così importante. Vedremo che cosa succederà. Grazie Roberto Mastrangelo, vice direttore nazionale dell'area esercizio dell'ANAS. Adesso il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.